fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Amici di Resto Radio Convento, di nuovo benvenuti sulla nostra web radio da Master Nick. Devo stare attento a come parlo, alle espressioni che uso in questi minuti, perché abbiamo con noi un'esimia super acculturata, perché abbiamo, insomma, qui bisogna dare del vossia, nemmeno il voi è troppo poco, bisogna essere eleganti, forbiti, corretti, e soprattutto come dire, avere tanta, come si chiama, lacca per i capelli, perché vedendo la pettinatura della ragazza, per starle dietro bisogna laccarsi molto, quindi già perdo in partenza per motivi che non vi sto a spiegare. Ma adesso andiamo a conoscere lei, la grande protagonista di questa serata, e ora capirete anche perché bisogna essere acculturati per starle dietro. Come ti chiami? Giulia Rocchi. Giulia, allora, da dove vieni? Da Bergamo. Bergamo, e dici un po' cosa festeggi questa sera, cioè delle tante cose che potresti festeggiare, quale hai scelto? Allora, stasera festeggio la mia terza laurea in psicologia clinica. Oh, la terza laurea, cioè pensate un po' con chi abbiamo a che fare. E le prime due a questo punto? In giurisprudenza e in scienze psicologiche. Che non, no, beh, un c'entrano, la seconda e la terza sì, una con l'altra, la prima no, però non c'entra nulla. Cosa è successo in quel frangente? Ho capito che volevo cambiare prospettiva, sempre per i minori, ma in un altro campo. E esatto. Allora, già mi sei strana, nel senso che, allora, è strano che tu abbia tre lauree, complimenti. No, strano è eccezionale, cioè in senso positivo, perché già è difficile pigliarne una, tre sei un mito. E sono, insomma, non tre lauree, come dire, scuola dell'obbligo, cioè tre lauree difficilissime. Non avevo niente da fare. No, vabbè, complimenti, veramente mi tolgo con tanto cappello. Però sei anche un esempio particolare, perché solitamente uno capisce a metà, durante la sua strada, di averla sbagliata e corregge il tiro, come si dice. Tu invece, non so se per scelta o per destino, hai finito il tuo percorso. Come mai? Cioè, te ne sei veramente accorta una volta laureata, o per senso di responsabilità hai detto finisco e poi cambio? Esatto, ho detto porto a termine ciò che ho iniziato e poi faccio quello che mi piace. E quando ti sei accorta che dovevi e volevi cambiare? Per il terzo anno, più o meno, su 5. Sul terzo anno su 5 ho capito che... Cioè, quindi ti sei fatta 2 anni praticamente di a denti stretti, fino in fondo? Esatto, fino alla fine. Complimenti, sei ancora... Ma hai iniziato a studiare a 5 anni praticamente, perché sennò non mi tornano i conti. Più o meno, no, ma ho iniziato e poi ho detto finiamo e poi inizio a fare quello che mi piace. Grande, grande davvero. E a questo punto mi viene da dirti, come giusto che sia, che lavoro, cosa vuoi fare da grande? Lo psicologo giuridico. Oh, beh, deciso? Deciso, sicuro? Sicuro, mettiamo insieme tutto. Oh, allora, e adesso l'altra grande domanda è... Hai finalmente voglia di iniziare a lavorare o pensi di fare un altro corsettino così? Ma un masterino ce lo metterei, esatto, magari. Una specializzazione. Ma con calma, che fretta c'è di lavoro? Esatto, ma che fretta c'è? C'è quota tanto, 100. Già, esatto, andiamo in pensione a 98 anni. Se tu in più prendi 3 lauree, almeno è un'aspettativa di pensione a 130-140. E poi te le rimborsano pure spesso. Esatto, esatto, quindi complimenti. E cosa ti ha affascinato di questo mondo così particolare ma anche così delicato? Come mai sei finita lì? È l'essere umano, il bambino nello specifico, e la tutela di chi è il fragile. Mo, bello, bellissima descrizione. Sembra un testo di una, no, tra una poesia e il testo di una bellissima canzone. Chi hai scelto per questa serata? Cioè, di chi ti sei circondata? Fratelli, moroso e amici più cari di una vita. Fratelli, moroso e amici più cari. Quindi moroso uno, perché l'hai detto al singolare. L'unico che è arrivato fin qua. Ah, ok, ok. L'hai detto al singolare, qui ci siamo. Fratelli l'hai detto al plurale, quindi quanti? Tanti, 5. 5, wow, che bello. E tutti così... No. Lì, ah no, sei l'unico, sei la pecora nera della famiglia. Non proprio, però quasi. Quasi, quasi, sì. Bene, bene. 5 fratelli, complimenti. E poi vabbè, tutti gli amici che ti hanno... E gli amici più cari. Che più ti hanno sempre circondata. Vai, vuoi mandare un messaggio, vuoi dire qualcosa? Sì, no, ringrazio chi c'è stato, chi è venuto fin qua per festeggiare questo traguardo, e Giovanni che mi è sempre accanto. Oh, bello, bello. che avrai la casa, cioè avrete la casa, se l'avrete, non so se l'avete già o l'avrete un giorno, cosparsa di libri, cioè praticamente libri dappertutto, perché per stare dietro ai volumi che deve, è una biblioteca vivente praticamente questa più ragazza, più o meno. Perché tornando al discorso di prima, non sono dei libri per bambini, ma saranno dei tomi esagerati da un millino di pagine. C'è di tutto. Qual è il più, l'esame più pesante delle tre lauree che ricordi? Neuropsicologia clinica. Non è la mia passione, quindi. È stata dura mandarla giù, ma insomma, un pezzo del percorso che hai dovuto fare. E il tomo invece più importante? Il tomo più importante direi psicologia dinamica. Intorno alle 1000, 2000, 5000. È andata bene, erano 350. Ah beh dai, 350, però scritte fitte e con paroloni, cioè non c'era mai una congiunzione, almeno paroloni da 8 lettere. Se no non valeva. Allora, grazie mille alla nostra laureata, grazie ai suoi amici, ai fratelli e Moroso che l'hanno accompagnata qui, e noi l'accompagniamo nella sua festa. Non so neanche io se darti appuntamento alla prossima laurea o alla firma del contratto. Si sa mai. Speriamo alla firma del contratto, esatto. La firma del primo contratto. Torna a festeggiare da noi e intanto grazie per essere stata qui e aver condiviso la tua festa insieme a noi. A grazie presto. A voi. Ciao. Ciao.